Mi prossimo tra i gioielli supremi, così una volta un dio il Bhagavan di Maharaja sulla montagna perché devotò insieme un vasto sangue di mola e un vasto sangue di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Viteshvara stava placandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza, vedi anche cinque aggregati come vuoti intrinseca natura. Poi tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra, così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Viteshvara: come deve estrarsi ogni filo del lineaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza? Così egli parlò, il Bodhisattva Mahasattva Arya Viteshvara rispose allora al venerabile figlio di Sarasvati: Shariputra, ogni fino filo del lineaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi nel seguente modo, apprendendo correttamente e ripetutamente anche cinque aggregati come vuoti in seca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuote sensazioni, discriminazioni, fattore di competizione e coscienza. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti, non cessano, non sono contaminati, non sono privi di contaminazione, non diminuiscono, non crescono. Perciò, Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattore di composizione, né coscienze, non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente, non sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né tangibile, né fenomeni, e neppure il costituente dell'occhio e così via, includere il costituente della mente e della coscienza mentale. Non c'è ignoranza né estensione di lignanza, fino ad includere vecchiaia e morte, ingestione vecchiaia della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, istruzione, sentiero. Non c'è sé suprema, nutrimenti, neppure mancanza di ottenimenti. Perciò Shariputra, poiché non c'è ottenimenti, i Bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza, il loro mezzo senza oscurazione e senza paura. Essendo completamente andati al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale, Nirvana. Ed affidandosi alla perfezione della saggezza, è evidente che tutti i Buddha, dimoranti nei tre tempi, sono anche completamente risvegliati nell'inesorcabile e perfetta piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra guarcia che non uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze dal momento che non le fa, dovrebbe essere riconosciuto come vero. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata angate angate paragate parasamgate bodhisattva Shariputra, in questo modo che il bodhisattva Mahasattva dovrebbe estrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan rimase da quel samadhi e elogiò il bodhisattva Mahasattva Arya Viteshvara dicendo: ben detto, figlio del lineaggio, proprio così, si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio come tu hai mostrato, perfino i Tathagata ne gioiscono. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sarasvati, il Bodhisattva Mahasattva Arya Viteshvara, l'intera assemblea intorno a loro, insieme nel mondo dei dei uomini, dei semidei Gandharva, risultarono e posero alte lodi la parola del Bhagavan. Sanghe Ajahn Sanghe Ajahn Mo Jhonjo Bhadyo Dhanay Gyabso Che Dhanghe Chinso Gye Pe Sanam Ge Nola Penche Sanghe Drupa Jo Sanghe Ajahn Sanghe Ajahn Mo Jhonjo Bhadyo Dhanay Gyabso Che Dhanghe Chinso Gye Pe Sanam Ge Nola Penche Sanghe Drupa Jo Sanghe Ajahn Sanghe Ajahn Mo Jhonjo Bhadyo Dhanay Gyabso Che Dhanghe Chinso Gye Pe Sanam Ge Nola Penche Sanghe Drupa Jo. Poi si dovrebbe quindi, come di solito, aggiustare alla propria mente. Possiamo riflettere sul fatto che oggi siamo molto fortunati perché siamo ancora in vita, abbiamo una preziosa rinascita umana, quindi abbiamo la possibilità anche oggi, stasera, eccetera, di cogliere l'essenza di questa esistenza. Okay? Quindi dovrebbe pensare che, visto che abbiamo incontrato il Dharma, siamo molto fortunati e abbiamo quindi la possibilità di fare qualcosa di molto significativa con la nostra, con questa opportunità, con questa occasione che abbiamo, che sperimentiamo, no? Possiamo pensare che quindi tutti gli esseri sono esattamente come noi, sperimentano le difficoltà, sofferenze, esattamente come noi vogliono solo la felicità. Okay? E quindi se osserviamo il nostro comportamento, di solito nell'esistenza, vediamo che generalmente no? Cerchiamo solo di compiere il proprio beneficio, no? Senza prendere in considerazione le difficoltà o i desideri degli altri o cioè, le loro aspettative. Quindi tutta la nostra esistenza gira intorno, cioè, a ottenere la propria soddisfazione personale. Però dobbiamo vedere che tutti gli esseri da tempi senza inizio, no? Abbiamo avuto delle relazioni con questi esseri, sono state le proprie madri, fratelli, sorelle, compagni, eccetera, e quindi nel passato siamo stati al centro delle loro esistenze, ok? E quindi dobbiamo capire che adesso che abbiamo questa opportunità, abbiamo incontrato il Dharma, possiamo fare che la nostra mente diventa qualcosa di molto, molto particolare, possiamo sviluppare effettivamente un potenziale che ci rende in grado di rendere il beneficio, la gentilezza e l'amore che ci hanno dati gli altri da tempi senza inizio. Okay? Quindi cogliere, fare in modo che la mente sperimenta il suo potenziale completo. Okay? Questo potenziale completo è lo stato di Buddha. Nello stato di Buddha esistono, diciamo, i due scopi vengono completamente attualizzati, no? Il proprio scopo, cioè la propria realizzazione, la propria felicità personale, ma anche la capacità in un modo spontaneo e perfetto di compiere il beneficio degli altri, portandole piano piano a uno stato al di là della sofferenza. Okay? Quindi cerchiamo di generare questo desiderio che si chiama, quel tipo di mente che si chiama la mente di Bodhicitta, no? La mente del risveglio, che nell'entità di questo pensiero possa io, quindi io, ottenere lo stato di Buddha per il beneficio degli esseri, per il beneficio di tutti gli esseri. Quindi con quel tipo di mente dovrebbe svolgere le varie attività nella giornata, ok? Sì, riusciamo a mantenere quel tipo di mente nelle nostre attività, allora tutte le nostre attività diventano una causa per effettivamente attualizzare quel stato. Ok, in termini del testo, noi siamo arrivati, quindi siamo entrati nella contemplazione e l'addestramento dell'essere di motivazione superiore, dell'essere di motivazione superiore, e abbiamo visto, quindi abbiamo visto l'entità della mente, cioè che cos'è la mente di Bodhicitta che caratterizza un essere di motivazione superiore, quindi quando una persona genera la mente di Bodhicitta, simultaneamente diventa un Bodhisattva e entra sul sentiero dell'accumulazione, no? Che lo conduce allo stato di Buddha, cioè la sua, tra virgolette, carriera di Bodhisattva incomincia in quel momento. Abbiamo visto quindi i benefici di sviluppare tale mente, i vari tipi di Bodhicitta in termini di entità e le mente che sono necessarie, che possono far sorgere quel tipo di aspirazione, i quattro livelli di Bodhicitta, eccetera, e abbiamo visto che ci sono due metodi per far sorgere quel tipo di attitudine mentale. Questa attitudine mentale di Bodhicitta è la mente la più virtuosa che può esistere, che possiamo manifestare, no? Perché prende in considerazione, osserva, abbiamo visto, no? L'oggetto di osservazione sono tutti esseri senzienti senza eccezione, no? E c'è il desiderio di proteggere questi esseri, il desiderio di portarle al di là della sofferenza, okay? Delle difficoltà. Quindi una mente estremamente vasta. A che pagina siamo? Non riesco a localizzare la pagina nel testo italiano. Dovrebbe essere verso il 60. Ok, Pagina 59 c'è le sei cause. siamo ancora qui. Qui abbiamo visto che ci sono due metodi. Abbiamo il metodo dei sei causi un effetto, okay? E il metodo di cambiare se stesso con gli altri. E noi stiamo vedendo quindi questa mente, questo metodo dei sei cause un effetto. Abbiamo visto insieme il preliminare, okay? Che è quello dell'equanimità. E, abbiamo visto insieme il primo passo di questo addestramento, che è riconoscere tutti gli esseri come essendo la propria madre. Allora, rispetto a queste cose che abbiamo visto la settimana, cioè no, 2 settimane fa insieme, avete delle domande prima che procediamo? Devo ripetere qualcosa? Devo chiarire qualcosa? Okay, come di solito, qui c'è, deve essere una cosa interattiva, okay? Perché se non è interattivo, io vado avanti, quindi parlo, parlo, parlo, e poi quando vedo i vostri quiz, mi rendo conto che le cose non sono state ben chiaramente colte, quindi approfittate che siamo insieme, siamo pochi, per chiedere chiarificazione, eccetera, no? Avete provato almeno di meditare su queste equanimità, sullo sviluppo, come sviluppare l'equanimità? Avete incontrato difficoltà nelle vostre contemplazioni? C'è qualcosa che non è chiaro, qualcosa che non riuscite a generare? Domanda? No? Ok. Quindi, nello scopo di riportare le cose alla mente, il modo di sviluppare l'equanimità è da pre prendiamo quindi quello che cerchiamo di equalizzare qui. In generale sono tre tipi di esseri, no? Abbiamo gli esseri che consideriamo come gli amici, abbiamo esseri che consideriamo come i nemici e abbiamo gli esseri verso i quali siamo un po' indifferenti perché non entrano in queste due categorie, no? Abbiamo visto che gli amici di solito discriminiamo queste persone come amici perché ci aiutano o parlano bene di noi, okay? O ci sono di beneficio, o semplicemente anche perché la pensano come noi. Questo basta per far entrare qualcuno nella categoria di amico, no? E i nemici invece sono le persone che non ci aiutano, che ci criticano, okay? O che non la pensano come noi, okay? Anche questo basta. E poi abbiamo altre persone verso le quali abbiamo certa indifferenza, che non entrano in queste due categorie. Abbiamo visto che qui quello che cerchiamo di eliminare non è la distinzione tra amici, nemici, eccetera, perché questo è un dato di fatto. Ci sono delle persone che ci aiutano, okay? Ci sono delle persone che ci vogliono, che ci cercano di danneggiare, può capitare questa cosa. Quindi qui non è questa distinzione, per questa distinzione convenzionalmente è una mente valida, okay? È una condizione valida. Quello che non è quello che cerchiamo di eliminare, okay? Quindi non è la nozione. Okay? Ma è una mente imparziale, è la mente parziale, okay? Che cerca di beneficiare gli amici e di danneggiare i nemici. Quel tipo di mente che è mossa dall'attaccamento e dell'avversione, dell'ostilità, okay? O dell'indifferenza nella terza categoria. Quindi è questo che cerchiamo è la nostra attitudine che cerchiamo di come si dice, uguagliare? Uguagliare, la nostra attitudine che cerchiamo di uguagliare in relazione a queste tre categorie di persone. Non è la discriminazione di queste tre categorie di persone. È chiara questa cosa? Cosa, che differenza c'è tra questi due passaggi? Come, che Cioè, come differenza c'è? rapportarsi alla discriminazione, come invece. Uno è la percezione, ok? E la percezione è qualcosa di valido, perché nel senso che se tu cerchi di farmi dei, dei di darmi di farmi dei problemi nella vita di tutti i giorni, no? È chiaro che sei una persona che mi crea che cerca di crearmi delle difficoltà, ok? Quindi vieni etichettato come non come non puoi essere etichettato come amico, ok? Questo è un dato di fatto, è una mente valida, ma quello che bisogna cambiare è la mia attitudine ai tuoi confronti, nel senso che anche se tu cerchi di danneggiarmi, devo comunque mantenere un'attitudine che ricerca di esserti di beneficio. È questo che cerchiamo di sviluppare qui. Quindi non è la percezione, ma è l'attitudine, il modo di relazionarti. C'è la risposta. Esatto, c'è la risposta, sì, la possiamo metterla così. E diciamo, è una mente parziale, è una mente parziale, come l'ho messo qui, ok? Bias, come si dice bias? Una mente parziale, ok? Questa mente parziale è il risultato dell'attaccamento o dell'ostilità. E quindi per gli esseri che ho discriminato come amici cerco di beneficiare e quelli che ho discriminato come nemico e verso le quali ho ostilità cerco di danneggiarle. Sì. Questa attitudine in relazione anche alla proiezione della personalità c'è un nesso. Spiegami un Il po'. fatto della. Noi ci hanno insegnato che quello che vediamo è la nostra proiezione. Sì. E quindi il fatto di avere questa attitudine verso gli altri, buono o cattivo, C'è un esso e fa parte della nostra proiezione? Nel senso che sì, come dicevo prima, no? Sì, qualcuno cerca di beneficiarti, nel senso che ti aiuta nella vita di tutti i giorni, eccetera, è gentile con te. Ok? Questo ovviamente, se tu dopo pensi che questa persona. Cioè, dopo ci sono delle superimposizioni che vengono, nel senso che è l'esagerazione delle sue qualità, il fatto che anche i suoi difetti dopo ti appaiano anche a te come qualità, eccetera. Allora entriamo nell'ambito della proiezione, ok? Ma semplicemente il fatto che, dovuto all'attitudine di uno o dell'altro, che tu sì, etichetti il fatto che questa entra nella categoria delle persone che ti sono di beneficio e l'altra che sono di danno, questo non è troppo una proiezione. La proiezione è quello che va a sovraimporre in più su questa attitudine. È difficile di dire, cioè è difficile perché di trovare la via di mezzo, perché tutto è proiezione, nel senso che tutto è etichettato dalla mente su delle basi valide. Ok? Il problema è dopo, quando c'è un'afflizione mentale, come l'attaccamento, l'avversione, allora c'è una distorsione della realtà, un'esagerazione, ok? O nel lato del positivo o nel lato del negativo. Qui veramente c'è sovraimposizione, c'è proiezione. Ma poi, sì, ok, per adesso lasciamo qui, poi questa cosa delle proiezioni tornerà comunque nel futuro. Qui cerchiamo di mantenere le cose semplici, ok? Quello che cerchiamo di eliminare qui non è la discriminazione, ma è l'attitudine parziale di queste tre categorie. E quindi per farlo dobbiamo prendere in considerazione due punti di vista, ok? Il punto di vista delle persone, degli altri, e dopo è il nostro punto di vista. Quindi dal punto di vista degli altri dobbiamo vedere che queste tre categorie di persone, ok, hanno lo stesso desiderio di felicità, uguale, hanno lo stesso desiderio di felicità, hanno la stessa esperienza di difficoltà, di insoddisfazione, di sofferenza nella loro vita. Queste tre categorie di persone sono ugualmente privi di benessere, sono ugualmente prive di benessere. Okay? Questo è del loro punto di vista. E del nostro punto di vista abbiamo visto che dobbiamo prendere in considerazione l'esistenza ciclica e quindi il processo di rinascita senza inizio e vedere che quindi tutti gli esseri senza eccezione sono stati cari, nel senso sono stati padre, madre, fratelli, sorelle, compagni, amici, eccetera. E quindi non c'è veramente il motivo di discriminare perché se abbiamo questa stessa persona che oggi consideriamo come un amico, in vite passato è stato un nemico. E la persona che oggi consideriamo come un nemico, in vite passate è stato un amico molto caro. Quindi chi devo veramente verso chi devo veramente sentirmi attaccato o avere dell'avversione? Verso qualcuno che oggi ci fa del bene, ieri ci faceva del male, o oggi ci fa del male e ieri ci faceva del bene. Vediamo che questa attitudine è completamente un'attitudine focalizzata nell'istante, non è una mente che prende in considerazione, non ha un angolo di percezione ampio. Okay? Quindi questo, riflettendo in questo modo, quindi prendendo la categoria degli amici, dopo delle persone, dopo i nemici, dopo le persone che sono indifferenti, in quel modo cerchiamo di individualmente uguagliare la nostra mente e dopo espandere questa mente di equanimità a tutti gli esseri senzienti nelle 10 direzioni. Anche questo è il processo, questa è la contemplazione che dobbiamo cercare di mantenere, okay? Finché generiamo una sensazione su questa meditazione, no? Questa pratica, finché diventiamo confortevole e dopo si passa allo stadio successivo. Capito? È chiaro? No, che cos'è non è chiaro? Devi parlare. Sono rimasta ancora l'aspetto di prima. Cioè, com'è che da una discriminazione non viene naturalmente un buon attaccamento all'avversione? Penso che dalla discriminazione il passaggio successivo è l'attaccamento Quindi, dovuto all'attaccamento e all'avversione, all'avversione. tu generi un'attitudine, cioè come si dice, parziale, no? Discriminatorio. Discriminatoria. Quindi è quell'attitudine che devi modificare uguagliando la tua percezione di te stesso. Quindi quindi effettivamente, come lo dici, no? Bloccare l'attaccamento e l'avversione. È questa cosa che va bloccata, l'attaccamento e l'avversione, riflettendo sul fatto che uno, questi esseri sono uguali dal loro punto di vista e dal tuo punto di vista sono stati cari. Ugualmente cari o ugualmente ti hanno fatto dei danni anche, quindi non c'è una persona verso la quale devi sentirti vicino e dell'altra lontana, capito? Ma ci devi provare, perché lasciare le cose, il vostro problema è che lasciate le cose sulla carta, quindi lasciando le cose sulla carta è difficile di capire in che direzione dobbiamo muoversi, perché rimanete a livello intellettuale, ho l'impressione. Questo bisogna sedersi, ti siedi su una sedia e cerchi di fare questa contemplazione. E facendo la contemplazione vedrai che la comprensione dell'istruzione sorge e vedi effettivamente cosa cerchi, in che direzione la mente devi muoversi. E dopo, come si dice, l'elaborazione mentale, come si dice, il sostegno, no? Come si dice, l'illustrazione, gli esempi ti vengono naturalmente perché capisci in che direzione la mente devi muoversi e quindi riesci con la tua propria riflessione a muovere questa cosa. Okay? Io vi do degli esempi, ma questi esempi non necessariamente funzionano per tutti, no? Voi dovete trovare dopo i vostri esempi, la cosa deve diventare una cosa personale. Ci sono le istruzioni generali e dopo ciascuno devi, riflettendo su queste cose, comprendendo qual è lo scopo di questa contemplazione, verso il quale, che tipo di mente cerchiamo di generare, allora troverete la vostra, cioè il vostro, come si dice? Sì, la vostra, c'è cioè le parole stasera non vengono, troverete la vostra, ci sarà la vostra analisi personale, con gli esempi personali, con un'elaborazione personale che vi permetterà di far sorgere quel tipo di mente, ma non lasciate le cose sulla carta, non serve. Non serve, Dicevo, sì. correggimi se sbaglio, io non avevo partecipato, Dimmi. però il discorso è fondato su una classificazione dalla quale la mente non può prescindere, una classificazione conoscitiva in ogni settore, no? Cioè, la mente classifica e quindi c'è una discriminazione. Il punto forse, boh, se ben capito, credo anche, è non dare giudizi di valore soprattutto nella classificazione delle azioni, quindi non dare questi giudizi di valore, come dicevi prima, buono, non buono, amico, Allora, anche. c'è un po' di questo, ma questa classificazione non è troppo la classificazione che cerchiamo di eliminare, perché la classificazione Non si può eliminare. non si può eliminare, perché in termini di nome non si può eliminare, ok? Perché si basa su dei fatti, è una mente valida. Quello che cerchiamo di eliminare è l'attitudine che discrimina tra queste varie classificazioni. È più questo, ok? È un'attitudine diversa, un'attitudine diversa, un modo di relazionarsi diversi in confronto a queste varie classificazioni. Per esempio, spontaneamente abbiamo una mente che cerca di essere di beneficio a quelli che riteniamo come amici, no? Aiutarli, essere di beneficio. E naturalmente abbiamo l'attitudine di non aiutare quelle che riteniamo come dei nemici, naturalmente, anche forse anche di danneggiarle eventualmente. Questo è il tipo di mente che abbiamo naturalmente, no? È quello che cerchiamo di eliminare. Quindi non è la discriminazione, ma è questa attitudine parziale che ricerca di aiutare solo gli amici e danneggiare i nemici. È questo, quindi dobbiamo quindi uguagliare questa attitudine, come si ugualizza l'attitudine? Diminuendo l'attaccamento e l'avversione, comprendendo che non c'è ragione di essere attaccato agli amici, a queste persone che riteniamo amici e quindi aiutarle esclusivamente nello stesso modo, non c'è ragione per avere una mente di avversione verso queste persone che riteniamo come nemici e quindi cercano di danneggiare. Perché l'amico di oggi è stato il nemico di ieri, ok? E il nemico di oggi è stato l'amico di ieri, ok? Per esempio, questa persona che oggi ci danneggia, nella vita passata è stata la propria madre, siamo stati al centro della sua vita, ok? Ci ha dato tutto. Non potevamo neanche pa passare una giornata senza di lei quando eravamo piccoli, o era, non so, la nostra compagna di vita, o il nostro compagno di vita. E invece in questa vita, dovuto al karma, dovuto a cause e condizioni, questa persona ci appare come qualcuno che ci danneggia, ok? Ma quindi dobbiamo andare quindi al di là di queste apparenze. Questa è la riflessione qui, sì. Ama il tuo nemico. Come? Ama il tuo nemico. Lo puoi vedere anche così, sì. Però sì, ma qui non siamo ancora alla generazione dell'amore, siamo semplicemente a mettere il fondamento per la base, la fondazione, così il fondamento, così il fondamento, per essere in grado di far sorgere l'amore e la compassione, perché se non c'è questa base di equanimità è impossibile far sorgere un amore, una compassione che non discrimina. Quindi questa è la preparazione, è una mente di equanimità. Dobbiamo cercare di sviluppare questa cosa. Ok, quindi va meglio? Ok, e una volta quindi che abbiamo fatto questo, ok, entriamo quindi nell'addestramento effettivo col primo passo che è meditare sul fatto, che è il percepire tutti gli esseri come la propria madre. Quindi qui dobbiamo pensare che siamo nell'esistenza ciclica dei tempi senza inizio. Quindi le nostre rinascite non hanno un inizio, ce cioè sono un'infinità, ok? E in tutte queste vite passate abbiamo avuto una madre, abbiamo avuto un padre. Okay? E se ci dimentichiamo, cioè abbiamo avuto 100 vite, abbiamo avuto 100 madre, 100 madre, cioè 1 milione di vite, 1 milione di madre. E se ci chiediamo dove sono queste madre del passato, sono gli altri esseri che sono intorno a noi, okay? Che dovuto al karma, le apparenze cambiano, non possiamo riconoscere dovuto al processo dello stato intermedio, della rinascita, nel grembo, eccetera. E dovuto a causa e condizione abbiamo delle relazioni diverse con questi esseri, ma tutti gli esseri sono state la propria madre. Quindi questa è una delle contemplazioni, una delle realizzazioni le più difficili nell'amri, no? Quindi dobbiamo cercare di pensare in quel modo. Quindi dobbiamo estendere, dobbiamo, cioè, incominciare con gli esseri umani, dopo questa comprensione va estesa anche agli animali, anche agli altri tipi di esseri. Quindi dobbiamo arrivare a uno stato dove ogni essere ci appaiono, o abbiamo la stessa cioè, esattamente come quando riconosciamo la nostra madre, no? Spontaneamente abbiamo un certo tipo di riconoscimento, no? Come essendo la propria, ma dobbiamo avere questo riconoscimento verso tutti gli altri esseri. Questa è una cosa molto difficile da far sorgere, ci vuole molto tempo. Molto difficile. Qui entriamo veramente nelle cose difficili da far sorgere. Questo è molto più difficile che sviluppare la rinuncia a questa vita o alle vite future, eccetera. Questo si parla veramente di trasformare la propria mente, sviluppare delle qualità che sono anche difficili da esprimere, cioè, concettualmente. Lo stesso tipo di gratitudine, Non siamo ancora alla gratitudine. riconoscimento, Riconoscere, questa è la discriminazione. riconoscimento. Semplicemente un riconoscere o percepire, ecco, se tu preferisci, percepire tutti gli esseri come la propria madre. È una percezione, un riconoscimento. Non siamo ancora a ricordarsi la loro gentilezza. Pensate, no? Sì, la madre, quando la madre di questa vita muore, muore, se ne va, non smette di essere la propria madre. Non smette, no? Esattamente tutti gli esseri senzienti, no? Nelle vite passate sono stata la propria madre. Il fatto che non sono più presentemente la propria madre, non significa che non sono state mai, che non sono state la propria madre. Ma nel passato sono state la propria madre. Quindi è quel tipo di discriminazione che dobbiamo cercare di far nascere. Quindi ci vuole una grande familiarità con quel tipo di modi di pensare. Quindi quando si fanno queste, l'abbiamo già detto, no? Le varie contemplazioni dell'Amri, no? Nel senso che sì, la mattina vi alzate e cercate di, vi dite oggi medito sull'equanimità, ok? E meditate 20 minuti, un quarto d'ora, non so, mezz'ora sull'equanimità. Sì, una volta che vi alzate dal vostro posto di meditazione, non tenete in mente l'oggetto di meditazione della mattina, sarà impossibile fare dei progressi. Impossibile. Quindi durante tutto il giorno dovete cercare di mantenere la consapevolezza della cosa che avete contemplato anche 5 minuti la mattina, o anche l'argomento che avete letto la mattina, se non avete il tempo per meditare. Ma questo è per noi il periodo post-meditativo, è ancora più importante perché la giornata è 24 ore. Noi di meditazione quanto ne possiamo fare al giorno? Pochi, abbiamo poche capacità, no? La coscienza mentale è ancora allo stato embrionario. Quindi è molto importante durante queste 23 ore e mezzo di mantenere una certa consapevolezza. Si tratta sempre di consapevolezza, è la consapevolezza dell'oggetto di meditazione che non dobbiamo dimenticare. Quindi, se la mattina avete meditato sull'equanimità, allora durante tutto il giorno cercate di, quando vedete gli altri, di portare alla mente: queste sono le mie madri del passato, queste sono le mie madri del passato. Cercate di pensare in quel modo, di riportare alla mente l'oggetto di contemplazione. In quel modo, piano piano, si sviluppa la stabilità rispetto a quel modo di pensare. Piano piano la propria mente si trasforma e anche il modo di relazionarsi con gli altri si trasforma. Okay? Questo è il modo di procedere, perché se ci facciamo solo 20 minuti di meditazione la mattina e che il resto della giornata è Las Vegas, capito? È impossibile. È impossibile. Quindi saremo sempre bloccati sulle stesse cose. Quindi è importante portare, cioè nella vita di tutti i giorni, nelle nostre varie occupazioni, quando si prende il treno, quello che volete, andate a spesa, quando vedete le persone sull'ambito del posto di lavoro, eccetera, di portare l'oggetto di meditazione nella giornata. Sia l'impermanenza, portate l'impermanenza, sia la preziosa rinascita umana, la preziosa rinascita umana. Okay? E in quel modo. E il Lamrim, è facile di far questo perché non dovete cambiare la vostra per non dovete troppo cambiare la nostra non dobbiamo troppo cambiare la nostra percezione, nel senso che tutto ci può se sappiamo guardare, tutto ci può insegnare la preziosità della nostra esistenza, no? Delle condizioni che abbiamo, o l'impermanenza, o tutto ci può insegnare la sofferenza. Basta anche accendere la televisione, tutto ci può aiutarci a sviluppare equanimità, amore, compassione, no? Invece col tantra è molto più difficile, perché qui dobbiamo completamente cambiare la percezione di tutto. Quindi se queste cose non riusciamo a farlo con l'Amrim, sarà molto difficile, sarà impossibile dopo farle con altre pratiche, impossibile. Quindi è importante lo sviluppo di questa consapevolezza dell'oggetto di meditazione nel corso della giornata. Questo è l'unico modo nel quale potremo progredire, altrimenti è impossibile. Ok? Cioè è chiaro? Ha senso quello che vi sto dicendo? Okay. Quindi il percepire tutti essi come la propria madre, che okay, questo è abbastanza chiaro. Adesso abbiamo il secondo punto, okay, di questa 6 caso in effetto, è ricordarsi alla gentilezza. Ricordarsi la gentilezza. Allora, questo va fatto in quel modo. Prendete, allora sì, allora è possibile che in questa vita, dovuta al karma, ci sono le difficoltà con la propria madre. Se con la madre non funziona, prendete il padre, prendete la nonna, prendete chi volete, ok? L'importante è di portare a mente un essere che c'è stato, e anche percepire tutti gli esseri come la propria madre. L'importante è di portare a mente la persona che è stata di una grande bontà corso della nostra vita, ok? Quindi sì. In questa vita abbiamo difficoltà con la madre, allora prendi un altro essere, non cambia nulla. Quindi prendiamo la madre di questa vita e dobbiamo ricordarci la gentilezza di questa madre, no? Il suo amore, la sua compassione, okay? La sua, ai nostri confronti, in quel modo. Quindi dobbiamo, possiamo progredire utilizzando la madre di questa vita. Quindi la contemplazione ha i vari punti, no? Dobbiamo prendere in considerazione quando eravamo nel grembo materno, no? Allora a quel momento la madre si comporta anche come se forse il proprio corpo non era più il suo, okay? Nel senso che fa molto attenta a quello che mangia, non si priva anche di mangiare delle cose che gli piacciono perché possono fare del male al proprio figlio, no? Di bere certe cose, eventualmente anche di fumare, se c'è attaccamento a fumare, le sue attività anche, abbandona certe attività perché sa che può essere di danno ai propri figli, no? Quindi vediamo che durante 9 mesi già la sua attenzione, siamo veramente al centro dei suoi pensieri, anche se non siamo ancora nati, siamo già al centro dei suoi pensieri, no? Fa molto attento. Al suo, a quello, sì, fa molto attento. E poi c'è dopo la nascita, noi non possiamo neanche sopravvivere metà di una giornata se non c'è l'attenzione della madre. Neanche metà di una giornata l'avremmo fatta sopravvivere senza la sua attenzione. E questo per molti anni così, no? Quindi ci ha dato sempre, no, il conforto, ci ha dato da mangiare, da bereci. Si è privato di quello che era di migliore qualità per darcelo. Lei dormiva nel posto umido, nel posto freddo per farci dormire nel posto caldo e secco. Cioè, tutte le sue attenzioni, no? Cioè, ha abbandonato anche il sonno, ha abbandonato il sonno anche per prendersi cura di noi. Ha pulito le nostre feci, no? Quando eravamo, ci ha pulito. Ci ha dato da mangiare, ci ha imparato a parlare, ci ha imparato anche a pensare. Il fatto che noi possiamo pensare in modo chiaro e coerente in questa vita adesso è dovuto all'educazione che ci ha dato la propria madre, perché si è presa cura di noi, no? Certe volte pensiamo che siamo il prodotto dei nostri sforzi, eccetera, indipendentemente, no, dei genitori, eccetera, però se pensiamo bene non è veramente così. Veramente così. Quindi dopo dobbiamo pensare al fatto che sì, quando eravamo per esempio ammalata, non poteva sentirsi, come dice, staccata o indifferente ai nostri dolori, no? Avrebbe anche cambiato, si sarebbe anche scambiata con noi, no? Avrebbe anche preso su di lei proprie malattie e dolori, invece di vedere i propri figli nella sofferenza e le difficoltà, no? Quindi ci ha anche curato quando eravamo ammalato, ci ha cucinato per noi, ci ha fornito anche enjoyment, come si dice? Sì, no, no, non gioia, ma divertimento, ha anche pagato per il nostro divertimento, ci ha mandato in vacanze, cioè, finché siamo diventati indipendenti finanziariamente, cioè la madre ha continuato a sponsorizzare tutte le nostre varie attività utili e completamente assurde anche certe volte. Okay? Quindi ci ha dato soldi, educazione, okay? Ha pagato per i nostri desideri, e nei studi ci ha mostrato anche di supporto. Nei nostri studi, di supporto anche in tutte le varie imprese nelle quali ci siamo lanciati, no? Cioè, questa è la gentilezza della madre. Quindi la gentilezza della madre è senza fine, senza fine. Non c'è un limite, non c'è un limite all'amore e alla gentilezza di una madre. Quindi questo dovremmo riflettere in quel modo. Quindi sì, pensiamo in quel modo, allora naturalmente, amore, compassione e rispetto sorge come risultato di questa contemplazione, no? Sì. Quindi una volta che è fatto per la madre, dobbiamo estendere questa comprensione agli altri parenti e amici. Quindi dopo si prende il padre e si vede che anche il padre è stato la nostra madre e che il padre ha avuto le stesse attitudini, bla bla bla bla bla, si rifà la lista, la contemplazione, focalizzate su quelli che vi toccano, non necessariamente dove... Cioè, all'inizio è buono di avere un elenco il più vasto possibile per capire quale argomentazione muove la vostra mente, no? Quale argomentazione. Dopo, quindi, il padre è stata la propria madre, la sorella, il fratello è stata la propria madre, la nonna è stata la propria madre, il zio, zia, cioè poi gli amici sono stati la propria madre, con tutta la stessa argomentazione, no? E dopo... quindi dobbiamo coltivare il ricordo della gentilezza di tutti questi, di questa prima categoria di persone. E dopo si fa la stessa cosa con le persone verso le quali siamo neutro, che non abbiamo, che siamo indifferenti. Okay? Quindi questa persona è stata la propria madre, quando è stata la propria madre si è comportata pop, pop, pop, pop, in quel modo. Okay? E poi si fa... Quindi si dovrebbe produrre un'attitudine, quindi con queste persone verso le quali siamo indifferenti, dobbiamo arrivare a produrre un'attitudine uguale a quello che abbiamo per gli amici, i genitori, le persone molto vicine. E dopo si prende i nemici, le persone con le quali abbiamo difficoltà. Allora, i nemici qui è una categoria molto ampia, non sono necessariamente le persone che vi danneggiano, perché forse in questa vita... Non c'è nessuno che cerca veramente di danneggiarmi. Però ci sono delle persone, questo vale anche per l'equanimità, sono le persone verso le quali avete anche difficoltà di comunicare, verso le quali cioè non volete sedervi intorno al tavolo, non sedervi a tavola con loro, verso le quali, no? Quando le vedete, cioè, prendete largo. Quindi non necessariamente, questo entra in questa categoria di nemici, persone che evitate, che non vi sentite confortevole con loro, ok? Quindi è con questa categoria, quindi vi ricordate che sono state anche la vostra madre, no? Quindi si coltiva il ricordo della loro gentilezza uno per uno. Allora, non dovete, queste contemplazioni devono essere sul specifico, non devono essere una cosa generale, no? Cioè, vedete la propria madre, riuscite a generare un grande senso di comprendente, no? La profondità e la vastità dell'amore, della gentilezza della madre, e dopo subito va esteso a tutti gli altri esseri, ok? In quel modo ci sarà un problema che quando ci alziamo del posto di meditazione non riusciamo a farlo con le persone che sono con le quali abbiamo difficoltà, ok? Quindi è importante andare sul specifico. Cioè, visualizzate le persone, portate il loro viso alla vostra mente e pensate, quando questa persona è stata la mia madre nel passato, si è comportata toc, toc, toc, toc, toc, in quel modo, finché un grande senso di percepite la gentilezza di questa persona, finché veramente percepite l'amplitudine, la vastità della gentilezza di questa persona ai vostri confronti, che è stata dimostrata nel passato. Ok? E dopo, una volta che abbiamo fatto i nemici, dobbiamo estendere questa a tutti gli esseri senzienti delle 10 direzioni. Sono state le proprie, ma tutti gli esseri senza eccezione. Quindi si espande, no, la propria mente, no, visualizzando tutti gli esseri senzienti. E dobbiamo dimorare in questa contemplazione, in questa comprensione che tutti gli esseri sono stati la propria madre, e ricordarci la gentilezza di questi esseri, sì, ricordiamo la gentilezza di questi. Vediamo, sì, io non ho dimenticato niente. Okay. Quindi possiamo guardare anche questa cosa da un altro punto di vista. Quindi abbiamo visto che tutti gli esseri sono stati la propria madre, e quindi quando, no, quando abbiamo avuto questa relazione di madre e figlio, di figlio e madre, con questi esseri ci hanno mostrato una gentilezza senza fine, no? Siamo stati al centro della loro preoccupazione tutto il giorno, no? Al centro dell'amore e dell'attenzione di tutti questi esseri per tutta la loro vita. Okay? Il momento nel quale l'amore e l'attenzione di una madre cessa è quando il suo respiro cessa. Okay? Anche quando siamo a degli esseri completamente indipendenti, maturi, con famiglie, eccetera, non smettiamo mai di essere il figlio, non smettiamo mai. Quindi questo va tenuto in mente. E dopo vediamo che c'è anche senza prendere in considerazione questo aspetto, la gentilezza degli esseri e anche se si rifletta nelle situazioni di tutti i giorni, nel senso che tutto quello che possiamo usufruire, no? I vestiti, il cibo, l'educazione, tutto quello che utilizziamo nella giornata, tutto quello che utilizziamo nella giornata, no? Per vivere, cioè per riscaldarsi, per mantenere la salute, e anche quello che utilizziamo per distrarsi, no? Generare un po' di buon tempo. Tutto questo è dovuto anche alla gentilezza degli esseri, perché tutto è il prodotto dal lavoro degli esseri. Okay? Si prendiamo, c'è il cibo, no? C'è anche una bustina di tè. La bustina di tè è stata coltivata con grande fatica, no? Da certi esseri, no? È stata coltivata, raccolta, impacchettata, trasportata, etichettata, distribuita, messi in posto nei negozi, c'è stata anche pubblicità incontro a queste cose e poi delle persone ce l'hanno anche venduta, ma tutto questo è dovuto al lavoro degli altri, no? Quindi dobbiamo essere in grado di riconoscere anche la gentilezza degli esseri anche in questo, no? I propri vestiti che noi abbiamo sulla pelle, no? Questo è il risultato del lavoro degli altri. E queste persone, quando hanno compiuto queste varie task, compiti, no? L'hanno fatto con senso di fare le cose anche bene, no? Ci hanno messo tutto quello che potevano mettere in generale dentro, no? Qui dobbiamo essere in grado di, cioè la musica, cioè tutte le cose che utilizziamo, sì, per entertainment, no? Per rilassarsi, per passare un po' di buon tempo, la musica, il cinema, tutte queste cose, tutto questo è dovuto alla gentilezza degli altri. Se possiamo utilizzare, se siamo alla nostra disposizione, è perché qualcuno le ha prodotto, qualcuno le ha fatto in modo che le possiamo utilizzare, no? E le persone, cioè con molto sudore, ok? Hanno fatto queste varie. Questa cosa è stata resa possibile dovuto a un lavoro molto intenso di questi esseri, no? Quindi dobbiamo riflettere anche in questo modo, no? Poi possiamo anche pensare alla gentilezza degli altri, questo è più nel contesto dell'addestramento mentale, faremo un piccolo test insieme anche per completare questo aspetto, no? Che gli esseri sono anche estremamente gentili perché è dovuto tutta la nostra felicità passate, presente e futura è dovuto agli altri, nel senso che se non ci sono gli altri, noi non possiamo crearle causa della felicità futura e non possiamo sviluppare nessuna qualità. Nessuna qualità. La generosità, la pazienza, l'etica, tutto questo si basa esclusivamente sulla nostra attitudine all'incontro degli altri. Si possiamo, anche se siamo egoisti, no? Ma intelligenti, nel senso che vogliamo il benessere nel futuro, dipendiamo dagli altri perché per creare le cause del benessere materiale abbiamo bisogno degli altri per praticare la generosità. Quindi anche da questo punto di vista, no? Se non ci sono gli altri non possiamo sviluppare la minima qualità e quindi non possiamo sperimentare assolutamente in nessun modo l'estasi che sperimenta il Bodhisattva, no? O quelle che esistono nello stato del Buddha, no? Anche la liberazione è dovuta agli altri. lo sviluppo di qualità come quella dell'amore e della compassione, che sono universalmente riconosciute come delle qualità, no? Completamente fuori il contesto religioso, è dovuto all'esistenza degli altri, è dovuto alla gentilezza degli altri. Quindi tutto, la felicità passata, presente e futura, è dovuta esclusivamente agli altri. Quindi anche da questo punto di vista possiamo vedere la cosa. Però in questo contesto dobbiamo focalizzarci sul fatto che tutti gli esseri sono stati la propria madre e ricordare, utilizzando la madre di questa vita, comprendendo fino in fondo l'amplitudine della sua gentilezza, del suo amore, dopo cioè utilizzare questa comprensione con gli altri. Questo è il punto principale di questa fase qui. Ci sono delle domande? Ha senso quello Io che... farei un parallelismo Vai. che l'artista pratica proprio questo che tu hai appena detto. Ho conosciuto musicisti che, per esempio, hanno composto musiche incredibili e poi erano estremamente frustrati perché non avevano un pubblico. Cioè, l'artista necessita proprio di questo passaggio Esatto. e credo che ogni artista, quindi tutti, necessitiamo di questo passaggio. Nel momento che viene effettuato questo passaggio, il ritorno è più che energetico. Sì, questa è una distrazione. Bene, bene. Poi, quindi, poi dobbiamo, quindi una volta che abbiamo, allora anche questo, quindi va portato nella vita di tutti i giorni. Meditate su questo la mattina e il resto della giornata dovete pensare a questa cosa, no? Dovete pensare alla gentilezza degli altri, no? Ok? E dopo dobbiamo generare il desiderio di ricambiare questa gentilezza. Quindi davanti l'immensità della gentilezza di una madre incontra i suoi figli, quindi dobbiamo sentirsi in debito, no? Quindi la stessa cosa va per tutti gli altri esseri, perché tutti gli altri esseri sono stati la propria madre, quando sono stati la propria madre hanno avuto questa stessa attitudine, quindi dobbiamo sentire un grande debito all'incontro degli altri. Questo è molto importante, di sentire questo debito. E quindi generare il desiderio di ricambiare questa gentilezza. Questo è il terzo passo. Okay? Quindi, avendo riconosciuto gli esseri come la propria madre e avendo riportato a mente la loro gentilezza, saremo naturalmente inclino, si dice così, inclino, incline, okay, a ricambiare la gentilezza. È qualcosa di naturale. Se la contemplazione viene fatta bene, naturalmente siamo portati a ricambiare la loro gentilezza. Quindi dobbiamo pensare che adesso abbiamo l'opportunità, adesso che siamo esseri indipendenti, con pieno potenziale, eccetera, abbiamo l'opportunità. Okay? Di dare qualcosa indietro e adesso, non aspettate, è adesso. Okay? E quindi dobbiamo pensare che tutti gli esseri sono in uno stato di difficoltà nella vita di tutti i giorni, no? C'è una grande mancanza di benessere nella vita degli esseri, nella vita di una persona. Gli esseri mancano così tanto di benessere e quindi dobbiamo vedere che gli esseri non hanno la fortuna che abbiamo noi, no? Di aver incontrato l'insegnamento del Buddha, che è il metodo perfetto per ottenere la felicità nella vita futura, per cambiare la mente, eliminare le fonti della sofferenza e sperimentare quindi liberazione, uno stato di Buddha. Gli esseri non conoscono questo metodo, sono completamente ciechi rispetto a quali sono le vere cause della felicità, e cosa deve essere abbandonato per invece non sperimentare sofferenza. Quindi dobbiamo pensare che gli esseri hanno la mente, no? È completamente oscurata, è sotto il controllo dell'afflizione. E quindi hanno chiuso c'è cioè il sentiero per gli stati elevati come quello umano. E il sentiero della liberazione gli è per adesso chiuso, dovuto all'impossibilità di percepirlo, dovuto al non conoscere. Quindi dobbiamo cercare di generare quindi questo desiderio di ricambiare la gentilezza degli altri, quindi a generare un'attitudine che in un modo uguale ricerca, cioè la ricerca di ricambiare questa gentilezza e di naturalmente assumere quindi la responsabilità. Questo deve il frutto della contemplazione che sorge una responsabilità gioiosa, no? C'è un obbligo gioioso anche, è un obbligo gioioso, non è qualcosa che pesa, non è qualcosa che qualcuno deve fare qualcosa, se, non è che ci sentiamo obbligato, per qualcuno ci ha fatto un favore, allora ci sentiamo obbligato di rendere il favore, ok? È un obbligo gioioso, c'è questo slancio naturale di condividere o cioè di beneficiare gli altri, okay? Questo come sì, la contemplazione, vedete come una contemplazione si appoggia su quella precedente. Quindi il fatto di far sorgere queste attitudini dipende dalla cura con la quale compiamo i stati precedenti, no? I stati precedenti. È qualcosa di organico. Quindi in termini di ricambiare la gentilezza, quindi ok, sì, abbiamo fatto il toglio più o meno in giro. Ok, e quindi naturalmente come fase successiva da ricambiare la gentilezza, ok, quindi questo desiderio dal sentire questo debito c'è uno slancio, c'è questo desiderio di ricambiare questa gentilezza che si esprime nell'attitudine, nella mente di amore incommensurabile. Questo è il passo successivo. Mi sa che possiamo anche leggere il testo, perché ho saltato dei passaggi. Allora, ok, sì, prendiamo. Qualcuno può leggere, dice una volta acquisita. Veramente un'esperienza a questo proposito, si tratta di ricordare la loro gentilezza. 59, in basso. La mia madre di questa vita mi ha portato nel suo grembo per quasi 10 mesi. Essa ha trascurato la propria felicità e la sua fame e la sua sete. Tutti i suoi comportamenti nel bene e nel male sono stati per il vantaggio di suo figlio. Dato che essa mi ha dato questo stesso corpo e la vita dotata di libertà e ricchezze, all'inizio essa è stata estremamente gentile. Dopo essere nato mi ha adagiato in un soffice tappeto, mi ha protetto con tenerezza, mi ha guardato con i suoi occhi pieni d'amore. Mi ha accolto con un sorriso radioso, mi ha chiamato con nomi gradevoli, mi ha nutrito col suo dolce latte, mi ha imboccato con la sua lingua, ha pulito con la sua bocca le mie mucosità, ha pulito i miei escrementi con le sue mani, mi ha stretto al suo corpo caldo, mi ha protetto dalla paura del fuoco, dell'acqua e dei precipizi. Essa ha preferito dal profondo del suo cuore di ammalarsi piuttosto che suo figlio. E di morire essa stessa piuttosto che suo figlio. Prendendosi cura di me in questi e in altri modi, nel periodo intermedio, essa è stata estremamente gentile. Quando sono cresciuto, mi ha insegnato essa stessa, o mi ha fatto insegnare, perlomeno le buone qualità, come il modo di mangiare e così via. Senza tener conto di nulla, degli errori, delle sofferenze, delle parole cattive, lei mi diede tutto quello che amava, come il suo cuore, la terra, una casa e possedimenti che lei ha acquisito con sforzo, al punto dell'esaurimento fisico. Perciò lei alla fine è stata estremamente gentile. Pensando al modo in cui è stata estremamente gentile, medita finché fluiscono lacrime dai tuoi occhi, si drizzano i peli del tuo corpo e la tua mente è addolorata. Ok, quindi questo, vedi, qui avete la misura della contemplazione che è portata al suo, diciamo, apice, ok? E quando c'è quel tipo di sensazione dovuto alla contemplazione ripetuta, vi dico, questo una volta, due volte, non basta, deve essere ripetuta, ok? E quindi sorge quel tipo di. Questa è la misura dell'esperienza di quella contemplazione. Vai. Riguarda ricambiare la gentilezza, pensa, il continuo di tutti gli esseri senzienti che sono state le proprie madri sono disturbati dai cattivi spiriti delle afflizioni. I loro occhi per vedere quello che va adottato e quello che va scartato sono accecati dall'ignoranza. Essi sono privi del sostegno del profondo e santo Dharma, sono senza la guida del cieco, un amico spirituale virtuoso. Scivolando dal luogo di riposo dell'alto stato e della liberazione, precipitano nell'abisso delle tre cattive migrazioni. Vagano nella prigione delle tre sofferenze. Se le mie madri non possono contare su di me, il loro figlio su che altro possono contare? Se io, il figlio, non prendo su di me la responsabilità per proteggere le mie madri, chi altro la prenderà? Allora, in che modo possiamo venir loro in aiuto? Se ci si preoccupa di loro dando cibo per la fame, bibite per la sete, medicine a chi è afflitto da malattia, ricchezza al povero e così avanti, questo eliminerà le loro sofferenze provvisorie e individuali. Comunque, il punto principale deve essere di pensare finché la propria mente sia soggiogata. Io metterò tutti gli esseri senzienti negli stati della liberazione e dell'onniscienza. Per generare la mente effettiva si dovrebbero meditare i tre, amore, compassione e l'atteggiamento straordinario. Anche se riguarda i due, amore e compassione, l'ordine di quale sia la causa e quale il risultato non è definito. Nella pratica l'amore dovrebbe essere sviluppato prima, dice il Ghirlanda Preziosa. Anche se si donasse cibo 3 volte al giorno in 300 pentole, non sorgerebbe il merito equivalente a un singolo istante di amore. La meditazione sull'amore che possiede infinito beneficio è di pensare e dire verbalmente: come sarebbe bello se tutti gli esseri senzienti, mie madri in passato, che non possiedono la felicità, ottenessero la felicità. Possano essi avere la felicità. Con tutti i mezzi fare in modo che abbiano la felicità. Grazie, fermiamoci qui. Ok, quindi qui abbiamo rivisto insieme, ok, ricordarsi la gentilezza della propria madre, l'espandere a tutti gli esseri e generare cioè l'intenzione di ricambiare questa gentilezza, ok? E la fase successiva quindi è di generare l'amore incommensurabile all'incontro, o il grande amore, chiamiamolo così. Il grande amore all'incontro di tutti gli esseri. Okay? Allora, Nagarjuna, lui in un trattato presenta 8 benefici allo sviluppo di questo grande amore. Okay? 8 benefici. Allora, questo grande amore è un amore ovviamente imparziale, che okay? Osserva tutti gli esseri, non osserva soltanto una categoria, ma osserva tutti gli esseri. Ok? Quindi gli 8 benefici, uno di questi primi benefici è chi, per la persona che ha sviluppato quindi il grande amore, percepisce tutti gli altri in un aspetto positivo, senza eccezione. Questo, non so se potete immaginare cosa significa percepire tutti gli esseri in un aspetto positivo, ma solo questo, potrebbe eliminare grande parte della nostra sofferenza mentale. Perché grande parte della nostra sofferenza è dovuta al fatto di non percepire gli altri in un aspetto positivo. Quindi abbiamo dovuto a questo tutto un serio di concettualizzazione negativa, di sovraimposizione negativa sugli altri, che crea questo disturbo mentale che crea sofferenza. Quindi qui avremo sempre la percezione degli esseri in un aspetto positivo, quindi una grande pace, automaticamente una grande pace nella propria mente. Dovuto a questo, quindi saremo aiutati, sempre amati anche dagli esseri più sottili, dagli altri esseri umani, è chiaro, perché se qualcuno ha l'amore incommensurabile, un grande amore nel suo cuore, ovunque va, comunque è ricevuto con calore questa persona, no? Perché questa persona porta felicità ovunque va. Secondo è che quindi la persona che ha tal tipo di mente è naturalmente protetta dagli esseri più sottili. protetta degli esseri più sottili, e questi esseri sottili, più sottili, provvedono anche delle condizioni favorevoli per queste persone, per le sue varie attività. Okay. Altra cosa è che quindi, come abbiamo detto, una persona che ha il grande amore nel suo cuore, una persona che è felice, una persona che è abbastanza felice tutto il tempo, che sperimenta una mente a un certo livello anche di estasi, lui è sempre felice, rilassato, okay? E anche una facilità nel comunicare. Quarto beneficio è che a questa persona tutti i vari godimenti fisici, okay, gli arrivano naturalmente. Naturalmente questa persona gode di vari godimenti, okay? Questa persona è dovuta al fatto che la sua attività mentale è così naturalmente, cioè è così virtuosa, è positiva, automaticamente la sua salute rimane anche in salute. Come? Non soltanto che è stabile, ma qui non è più neanche un livello di stabilità, e questa persona ha un amore, cioè è riuscito a sviluppare un amore per tutti gli esseri senzienti, lo stesso che una madre ha per i suoi figli. Questo è lo scopo qui. Quindi, cioè, è un extraterrestre a quel livello. Questi sono i Bodhisattva, che hanno quindi naturalmente queste persone sono radianti, naturalmente, sono naturalmente rilassati, radianti, come andiamo avanti. Un essere così non può essere anche danneggiato da certi veleni, eccetera, anche se inserisce viene danneggiato. Questa persona senza sforzo riesce a compiere il suo proprio scopo, sia quello mondano che quello spirituale. Okay? Questa persona che ha sviluppato il grande amore prende rinascita nel rame del Brahma, nei rami superiori. Ok, quindi questi sono i benefici. Allora, qui il modo. Questa attitudine, non questa attitudine di amore all'incontro degli esseri, è qualcosa che sorge naturalmente o come effetto del ricambiare la gentilezza, scusate, sì, di voler ricambiare la gentilezza, che sorge dal ricordarsi della gentilezza, che sorge da aver percepito tutti gli esseri come la propria madre, no? E questa mente di amore è nell'entità del pensiero. Possono tutti gli esseri avere la felicità e le cause della felicità. Allora, qui dove siamo? Sì, qui vedete che nel testo, questa l'avete la pratica più estesa qui, dove viene suddivisa in uno, due, tre pensieri. Normalmente possiamo anche aggiungerne un quarto. Allora, il primo pensiero è come sarebbe meraviglioso, no? Se tutti gli esseri avevano la felicità e le cause della felicità. Questo è il primo pensiero. Il secondo pensiero è possono avere la felicità e le cause della felicità. Il terzo pensiero è io farò in modo che abbiano la felicità e le cause della felicità. E dopo c'è la richiesta incommensurabile, che è la richiesta ai Buddha, ai Bodhisattva, ai Lama, alle divinità, di aiutarci per fare in modo che questo accade. Okay? In quel modo abbiamo la pratica completa. Quindi questo sarebbe il modo di meditare. Okay? Questo è il modo di meditare. Allora, il modo di meditare, come l'abbiamo visto prima, è di portare a mente le varie categorie di esseri e fissarsi su delle persone specifiche. Quindi incominciamo con gli amici. Dopo le persone neutre, dopo le persone con le quali abbiamo delle difficoltà, e poi si estende a tutti gli esseri senzienti. Quel tipo di pensieri, no? Questi pensieri. Allora, c'è anche un modo, possiamo anche associare la visualizzazione, nel senso che facciamo è una cosa, all'inizio è una cosa che è difficile di far sorgere quel tipo di pensiero, quindi dobbiamo progredire, dobbiamo farlo in un modo graduale. quindi una possibilità è, quindi vi siedete confortevolmente, calmate la mente un po' sul respiro, però contate fino a 21 per esempio per calmare la mente e dopo visualizzate una persona davanti a voi che è estremamente cara, okay? Tipo la propria madre, okay? Perché avete contemplato così tanto sulla la gentilezza della madre che dovrebbe essere facile di far sorgere amore. L'amore, vi ripeto, è nell'entità del pensiero, possa questa persona avere la felicità e le cause della felicità. Questo si chiama amore nel buddismo. Okay? È questo. Quindi portate a mente quindi la gentilezza di questa persona. A quel momento non portate a mente la sua sofferenza, ma l'assenza di benessere. Ok? L'assenza di benessere. Quanto è priva del vero benessere autentico, okay? Quanto è priva di felicità questa persona, okay? E a quel momento dovrebbe sentire al vostro cuore cioè, dell'amore per questa persona, questa mente di amore, no? Visualizzate che questa mente di amore al cuore prende la forma di una pallina di luce dorata, ok? Una pallina di luce dorata, no? E pensate che identificate questo con la vostra mente, no? Questa è la mia mente di amore. E questa pallina di luce gialla si espande e colma completamente il vostro corpo e la vostra mente. A quel momento pensate che siete proprio questo pensiero, siete questo pensiero, no? E visualizzate quindi davanti c'è questa persona che è. C'è molto cara, dopo mettete altre, no? Altri familiari, cioè relativi, cioè persone della famiglia, poi mettete gli amici, ok? E poi espandete, fate in modo che quest'amore non cresce, questa luce gialla si espande e va a toccare questi esseri e pensate che quando questa luce gialla va a toccare questi esseri sperimentano la felicità, no? Tutti i loro problemi cessano. Tutti i loro vari sentimenti di solitudine o di insoddisfazione, eccetera, sperimentano solo felicità, sono colmi di felicità dovuta a questa luce, no? Il vostro amore che va a toccarle. E dopo espandete, ci mettete le persone che vi sono un po' indifferente e poi mettete gli amici, pensate, no? Che anche a queste persone, i nemici, scusate, i nemici, e pensate neanche queste persone con le quali avete difficoltà, anche loro meritano il vostro amore, no? Non c'è ragione per quale il vostro amore non deve estendersi a queste persone hanno difficoltà, sono prive di benessere, sono stati, portate alla mente le vostre contemplazioni, no? Passate, queste persone sono state molto vicine a voi, sono prese cura di voi, sono state le proprie madri, quindi espandete, e poi tutti gli esseri delle 10 direzioni, no? A quel punto questa luce copre tutti gli esseri, tutti gli esistenti, e quando vengono toccati da questa luce, pensate che quelli che sentono da solo non sentono più soli, quello che soffrono, quello che sono infelici diventano felici, no? E dimorate in questa sensazione, no? Che tutti gli esseri avere la felicità, le cause della felicità, no? Cioè, in quel modo, questo è il modo di meditare. E questo è qualcosa che crea grande felicità nella propria mente, no? Vedrete che velocemente, no? Si può sperimentare delle sensazioni, no? Varie in queste meditazioni e potrete a quel momento comprendere che sì, effettivamente possiamo vivere tutta una giornata in quella sensazione è una cosa straordinaria, nel senso il livello di felicità è veramente straordinario. Però il problema è che non siamo abituati con quel tipo di pensieri, quindi sorgono con grande sforzo dovuto a contemplazione, eccetera. Però con la familiarità possiamo con il tempo arrivare a stabilizzare questa cosa, possiamo arrivare a stabilizzarla. Questo è il modo di. Allora, è chiaro che visto che non abbiamo concentrazione, automaticamente con un po' di tempo, poco tempo, questa sensazione cade, no? Quindi a quel punto dovete ricominciare tutta la contemplazione, espandere e dimorare in questa amore che tocca, che non omette nessun essere, che non omette. mette nessun essere. Questo è il meditare sull'amore, ok? Quindi l'entità del pensiero, no? Possono tutti gli esseri avere la felicità e le cause della felicità. E poi potete aggiungere, sì, cioè il primo pensiero sarebbe come sarebbe meraviglioso se tutti gli esseri avevano la felicità e le cause della felicità, no? Possono avere la felicità e le cause della felicità. Farò un modo che abbiano la felicità, le cause della felicità, e dopo c'è la richiesta indirizzata verso il proprio maestro o i Buddha, Bodhisattva, che ci danno benedizione per fare in modo che possiamo compiere questa cosa. Questo è il modo di meditare su il grande amore. Avete delle domande? Sì, Certo. questo fatto mi sembra di aver seguito il discorso fino a questa luce che è l'amore, cioè che è l'amore che esce e illumina gli È come altri. un uovo, no? Che Sì, si sì, sì, sì. espande. E poi hai detto, mi sembra di aver capito, che questo ci porta a essere felici, il fatto di questa illuminazione, da quello che ho capito, ma ci porta a essere felici perché teoricamente o automaticamente c'è il ricambio della gioia di queste Non persone, no? soltanto, no? Proprio in termini di entità, questa era una riflessione, no? Che ho aggiunto, no? È che dovuto alle è che proprio l'entità di questa mente crea una grande felicità. Sì, Era solo questo. era solo questo senza pensare come mai, quindi. Senza pensare a questo, no? Era solo una notazione a parte, no? Che proprio, cioè, quel tipo di mente ci dà molta felicità. Quel tipo di meditazione dà molta felicità. Perché comunque una mente estremamente virtuosa, e tutte le menti virtuose sono concomitante con una sensazione di felicità. Così. Ecco perché anche se noi il buddismo non ci interessa molto, eccetera, anche se vogliamo semplicemente essere felice nella vita di tutti i giorni, allora dobbiamo abbandonare le menti non virtuose, perché le menti non virtuose sono concomitante con una sensazione spiacevole. C'è un'eccezione, è la mente di attaccamento. La mente di attaccamento è concomitante con una sensazione piacevole. Però tutte le altre, la gelosia, l'invidia, l'avversione, la belligeranza, l'orgoglio, il risentimento, tutte queste cose sono concomitante con una sensazione molto spiacevole. Quindi anche se vogliamo essere felici dobbiamo trovare un metodo per bloccare queste menti perché ci rendono molto infelice. E invece tutte le menti virtuose, come per esempio semplicemente anche le menti molto, cioè il non attaccamento, la non avversione, la mente di fede, la mente di equanimità, di amore, di compassione, tutte queste menti sono concomitante con una sensazione di piacere e di felicità. Quindi ecco perché se vogliamo essere felici dobbiamo eliminare le attitudini non virtuose e sviluppare invece attitudini virtuose, perché questo produce istantaneamente, quando si manifestano nel continuo mentale, producono felicità e benessere. Detto dell'attaccamento, sebbene sia positivo, nel tempo non è positivo per il creare soddisfazione. Allora, non ho detto che l'attaccamento era positivo. In nessun modo Sì. l'attaccamento è positivo. Ho No, detto che l'attaccamento infatti era ho parlato, concomitante o insieme, sì, quando sorge insieme con una sensazione di di piacere, piacere, scusa, perché osserva non l'oggetto positivo, di piacevole. piacere, che crea un falso piacere perché nel tempo poi crea O insoddisfazione. la più grande sofferenza non è creata dall'avversione, è creata dalla mente di attaccamento. Le più grandi sofferenze umane sono create dalle menti di attaccamento. E dopo quindi il passo successivo è di sviluppare la mente di grande compassione. Ok? Quindi possiamo fare la stessa cosa, la stessa meditazione di prima, o semplicemente pensare, no? Allora, sì, prima dobbiamo distinguere tra la compassione ordinaria e la grande compassione. Okay? Qui, in questo contesto, si tratta di grande compassione. Quindi, esattamente come il grande amore, non osserva solo gli esseri che sono davanti o una categoria, ma osserva tutti gli esseri senzienti, senza eccezione. Quindi l'entità dell'amore, l'abbiamo visto, è il desiderio che gli altri abbiano la felicità e le cause della felicità. Invece l'entità della compassione è che gli esseri siano liberi della sofferenza e delle cause della sofferenza. Quindi abbiamo questi stessi pensieri, no? Come sarebbe meraviglioso se gli esseri erano liberi della sofferenza, delle cause della sofferenza, possono essere liberi delle cause della sofferenza, farò in modo che siano liberi della sofferenza, delle cause della sofferenza, e perfino abbiamo la richiesta incommensurabile, che ha richiesto all'ama di divinità di darci le benedizioni per fare in modo di compiere questa cosa, di fare in modo di possiamo separare gli altri dalla sofferenza, delle cause della sofferenza. Questo è il modo di meditare. Questo infatti si chiamano i quattro incommensurabili. I quattro incommensurabili si meditano in quel modo. Abbiamo questi vari pensieri per l'equanimità, questi vari pensieri associati all'amore, questi vari pensieri associati alla compassione e gli stessi vari pensieri associati alla gioia anche. In questo contesto ci focalizziamo solo sull'amore e la compassione. Okay? Quindi qual è la differenza tra la compassione, per esempio, che esiste nel veicolo individuale, okay, e la compassione che esiste nel grande veicolo? Qualcuno conosce questa distinzione? Perché anche nel veicolo individuale abbiamo gli uditori, gli arrivi solitari, gli arhat addirittura hanno sviluppato l'amore incommensurabile, hanno le quattro incommensurabili, l'equanimità incommensurabile, la gioia incommensurabile, la compassione incommensurabile, eccetera. Okay? E in paragone a quello che possiamo generare noi, c'è un abyss di differenza tra la compassione che esiste nel nostro continuum e quella che esiste anche nel continuum di una persona del veicolo individuale che ha attualizzato i quattro incommensurabili. Quindi qual è la differenza tra la compassione che esiste nel suo continuum e la compassione che esiste nel continuum di un Bodhisattva? Qualcuno lo sa? Madhyamika? Non lo sai. No, no, no. Cioè, nel senso, sì, è chiaro che la compassione è una mente che desidera il beneficio altrui, perché è una mente che nell'entità del pensiero possono gli esseri essere liberi della sofferenza, del campo della sofferenza. Però in termini di attitudine, qual è la distinzione tra la compassione nell'Hinayana e nel Mahayana? È che la compassione nel Mahayana ha il desiderio di proteggere, no? È qualcosa di attivo, è associata al desiderio di proteggere. Invece la compassione che esiste nel veicolo individuale non ha necessariamente questa attitudine di proteggere, questo slancio attivo di assumere su di sé questa responsabilità. C'è questo pensiero straordinario, no? Ma non c'è necessariamente il desiderio di proteggere, no? Quindi questa è la differenza, questo viene spiegato dalla Matsun Kappa nel suo commentario alla Via di Mezzo. Quindi la compassione nel Mahayana c'è il desiderio di rimuovere, di proteggere. Ah, c'è questo, no? È questo che fa la distinzione tra queste due compassioni. Quindi per primo dobbiamo anche questo, lo dobbiamo costruire, questa contemplazione va costruita in stadi, ok? Quindi prima si riflette sulla propria situazione, si riflette sulla propria situazione. Quanto noi, per esempio, desideriamo la felicità e quanto invece desideriamo essere liberi della sofferenza, invece quanto siamo immersi nelle difficoltà tutti i giorni, nelle sofferenze fisiche e mentale, in questa rete di problematiche e difficoltà infinita, okay? Di tutti i giorni. In secondo, si riflette sulla sofferenza delle persone che sono vicino a noi, che sono cari ai nostri occhi, no? E si vede quanto anche loro, no, sono immersi nelle sofferenze e difficoltà, e quante le loro sofferenze e difficoltà sono molto più ampie e profonde che le nostre. In generale è così, no? Sono sempre più, vediamo che la loro sofferenza è sempre più profonda e più acuta che la nostra, no? E quindi dobbiamo riconoscere il loro anche desiderio di liberarsi di queste difficoltà e sofferenza. Okay? E alla fine si estende questa attitudine, questa comprensione anche agli altri che sono persone verso le quali siamo indifferenti e i nemici, e perfine a tutti gli esseri nelle 10 direzioni. Questo è il modo progressivo di costruire questa contemplazione. Okay? Quindi dobbiamo riflettere sul modo in quale tutti questi vari esseri sono portati dai quattro fiumi. Vi ricordate quali sono i quattro fiumi? Non sono l'Arno, eccetera. No. I quattro fiumi, l'abbiamo visto quando abbiamo fatto le contemplazioni dell'essere di motivazione individuale, sono la sofferenza, sono quattro sofferenze, sono risultanti. Si chiamano fiumi risultante perché sono le quattro sofferenze principali della nascita, dell'invecchiamento, della malattia e della morte. No. Queste quattro. Dobbiamo riflettere sulla sofferenza dei rami inferiori, sulla sofferenza dei rami superiori, quindi i 6 tipi di sofferenza, gli 8 tipi di sofferenza, e quindi qui avete un problema perché non c'è nessuno che è stato in grado di darvi la lista di questi. Quindi vedete che se non ci sono queste contemplazioni dello stato precedente, è impossibile far sorgere il risultato delle contemplazioni dei livelli successivi, perché si nutrono, ha come base e si nutrono di queste comprensioni già acquisite. Quindi è come una piramide, no? Dove i livelli successivi si appoggiano sui livelli, i livelli precedenti, e i livelli successivi sono sempre più sottili e sempre più difficili da generare. Quindi più la base è stabile, okay, automaticamente più c'è facilità a far sorgere queste menti più sottili, molto più difficili. Perché è più facile di far sorgere la mente di emersione definitiva che di far sorgere la mente di grande compassione. Molto più facile. Ok? Quindi contemplando tutte queste varie sofferenze, no? E vedendo che le persone che sono cari per noi sono afflitti di queste sofferenze senza sosta, da tempi senza inizio, e ancora loro saranno vittime di queste sofferenze ancora per cioè, e senza fine, no? Tutti questi esseri che sono cari ai nostri occhi, tutti i nostri amici, eccetera, tutti gli esseri. Allora, naturalmente, a quel momento la compassione sorge. La mente di compassione, che è l'entità del desiderio, l'entità del desiderio, no? Che siano liberi della sofferenza, sorge. Quando questa sorge, ci focalizziamo sopra. Quando si perde, perché la concentrazione è debole, quando si perde si riproduce questa contemplazione, e si fa sorgere la mente di compassione e si mantiene, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il modo di procedere. Quindi prima si prende un essere che è molto vicino a noi, si porta a mente le sue sofferenze quando sono difficili, poi si estende agli altri esseri, poi si contempla la sofferenza di tutti questi esseri, le varie contemplazioni che abbiamo fatto, cioè i vari tipi di sofferenze, 6, 8, eccetera, e naturalmente c'è la mente di compassione che sorge e questo viene mantenuta. Quindi sì, possiamo, per aiutarci un po', no, a vedere che tipo di oggetto di meditazione bisogna far sorgere, viene detto che la mente di equanimità, no, è simile a quando, no, quando siamo stanchi, ci sdraiamo, no? C'è questa sensazione, questa è simile alla mente di equanimità, no? Non so se avete in mente questa, anche okay. Quando siete stanchi e vi sdraiate, no? C'è questa grande tranquillità, no? Cioè, questa è simile alla mente di equanimità, no? Questo è l'oggetto. La mente di amore è simile alla mente, no? Alla mente, quando vediamo dei bambini, no? Dei piccoli bambini, o dei cuccioli, cioè spontaneamente, no? C'è questo slancio, no? E vediamo, oh, questa è la mente di, simile alla mente di amore, questa è simile. Okay? E invece la mente di compassione, no? Immaginate, no? Che vedete la propria madre, no, in ospedale con i tubi, tubi dappertutto. Cioè, questa mente è la mente di compassione, anche okay. Non può sostenere la visione della sofferenza di un essere che è caro. Questa è la mente di compassione. E la mente di gioia, qui non è menzionata, però va meditato anche nel contesto dei quattro incommensurabili. La mente di gioia è quando all'improvviso vedete degli amici che non avete visto da molto tempo alla vostra porta, no? Aprite la porta. Oh! Questa è la mente di gioia. Ok, e dopo di questo c'è la mente, c'è cioè l'intenzione superiore. A quel punto va meditato l'intenzione superiore. Non so se il testo delle mie pagine. Aspettate perché forse ho ancora degli appunti qui. Quindi sì, la Matsung Kapa dell'Amrin Shenmo, qui ho degli appunti che provengono dell'Amrin Shenmo, dice che per generare la mente di compassione bisogna avere una forte sensazione per la sofferenza degli altri, no? E quindi bisogna per primo aver contemplato molto la propria sofferenza, aver capito bene l'ampiezza, la profonda l'amplitudine della propria sofferenza e aver desiderato di essere liberi, quindi aver generato questo desiderio dell'emancipazione della sofferenza, perché altrimenti sarà impossibile di far sorgere quel tipo di mente per gli altri. No? E poi dice che anche questa mente di amore, qual è la funzione di questa mente di amore? La mente di amore ci permette di sentirsi molto vicino agli altri, no? Dovuta a questa mente di amore ci ravvicina degli altri. Quindi sentiamo vicino agli esseri senzienti e le percepiamo come cari e preziosi, esattamente come una madre si sente vicino al suo proprio figlio. Questa è la funzione di queste mente. Quindi cioè, quando la madre vede che il figlio è ammalato, non può rimanere distante, non può rimanere staccata, è impossibile. Dovuto a quest'amore, questa mente di amore e di compassione, dovuto a questa mente di amore, quindi per generare la grande compassione, quel tipo di amore deve sorgere nel nostro continuo mentale. Quindi Ramatsungapa enfatizza il fatto che è necessario di praticare gli altri due sentieri inferiori, no? Il sentiero dell'essere di motivazione iniziale e il sentiero di motivazione intermedio per diventare familiare, molto intime con la nozione di sofferenza. Poi aggiunge che la pratica della compassione è una pratica che ci permette di purificare molto karma negativo molto velocemente, no? Poi dice che se il nostro desiderio è di ottenere l'illuminazione, allora, la pratica principale deve essere quella della grande compassione. Il più velocemente meditiamo, sviluppiamo la mente di grande compassione, il più velocemente ci muoviamo verso l'illuminazione. Questo dice che è il segreto per l'ottenimento dello stato di Buddha è del sviluppare una realizzazione molto profonda, molto stabile e molto forte della grande compassione. Quindi dopo abbiamo l'intenzione superiore, intenzione superiore, quindi la bodhicitta sorge dalla compassione, questo è chiaro, no? La bodhicitta sorge dalla grande compassione, ma non è la sua causa immediata. La causa immediata che precede immediatamente la compassione, la mente di bodhicitta, è l'intenzione superiore, intenzione superiore. Quindi questa intenzione superiore esiste solo nel Mahayana. Questa è la causa immediata della mente di Bodhicitta. Quindi è una mente estremamente coraggiosa, no? Una mente molto forte che assume su di sé la responsabilità di effettivamente liberare gli altri della sofferenza e difficoltà, no? Quindi assume su di sé questa responsabilità, quindi una mente estremamente vasta, stabile, che osserva quindi tutti gli esseri senzienti e consapevole delle loro sofferenze e assume su di sé la responsabilità di portarle al di là della sofferenza. Quindi, sì, allora, come avete visto, no? Ciascuna, questa abbiamo fatto, queste sono le sei cause. Dobbiamo vedere, cioè, allora, come risultato del far sorgere a questa intenzione superiore, no? Il risultato è la mente di Bodhicitta, perché a quel momento la persona dovrebbe riflettere e vedere se sì, effettivamente ha le capacità, nello stato attuale, no? Ci sono le capacità di liberare gli esseri della sofferenza, di proteggere e portarli allo stato della liberazione. Quindi è chiaro che neanche la nostra benessere personale siamo in grado di compiere nello stato attuale. E quindi dovrebbe essere chiara rispetto a come è possibile chi se c'è qualcosa o se c'è un metodo o qualcuno che ha effettivamente quel tipo di capacità. E allora, nutrito dalla comprensione di ciò che sono i tre gioielli, vi ricordate come ha fatto le qualità del Buddha, le qualità del Dharma, le qualità del Sangha, in particolare le qualità del Buddha? Allora, a quel momento la mente comprende chiaramente che il Buddha ha effettivamente queste capacità. Allora si genera, allora la mente di Bodhicitta sorge come risultato di questa comprensione. Possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio degli esseri senzienti. Quindi abbiamo sei cause è un effetto. Okay, quindi ciascuna delle sei cause progressivamente generano il livello, cioè la causa sulla, il livello successivo, no? Funzionano così, sono allora, le prime tre le abbiamo viste, no? Le prime tre che sono il percepire tutti essi come la propria madre e ricordarsi la loro gentilezza e generare il desiderio di ricambiare la loro gentilezza, queste sono le basi per la bodhicitta, okay? E sono il fondamento per essere in grado di beneficiare gli altri, no? E invece il secondo gruppo di cause, che sono il grande amore, la grande compassione e l'intenzione superiore, okay? Queste sono le cause effettive della mente di Bodhicitta. In quel modo, questi ci rendono effettivamente in grado di compiere il beneficio degli altri. Quindi, quando le sei sono state generate, la mente di Bodhicitta sorge naturalmente come risultato, come il frutto di questo addestramento. Questo è l'addestramento. Quindi la bodhicitta sorge quando abbiamo realizzato, compreso ben chiaramente, okay, che per beneficiare tutti gli esseri senzienti uno deve ottenere l'illuminazione, e si determina di parcorrire quel sentiero, di attualizzare quel stato. Quindi, come l'avevo detto prima, nello stato di Buddha i due scopi vengono a esiste nello stato di Buddha i due scopi. Lo scopo personale e lo scopo altrui. Okay. Quindi dovremmo sentirci fortunati di aver incontrato quel metodo, okay? Quel metodo e di avere l'opportunità di addestrarsi e di metterlo in pratica. E dovremmo cercare di diventare di sviluppare familiarità con queste istruzioni, di praticarle regolarmente, di applicare la meditazione analitica su questi vari punti, analizzare anche la mente di Bodhicitta, che cos'è, quali sono i suoi oggetti, riconoscere, no? Vi ricordate, la mente di Bodhicitta è l'unica mente che ha due oggetti di osservazione e due aspirazioni. Quali sono i due oggetti di osservazione della mente di Bodhicitta? Essere di beneficio agli altri e sviluppare No, la mente di Bodhicitta è il quindi desiderio di ottenere l'illuminazione ed essere beneficio degli altri. Quindi le due oggetti di osservazione sono l'illuminazione nel proprio continuum, l'illuminazione nel proprio continuum e il nirvana nel continuum degli altri. Questi sono gli oggetti di osservazione. Quindi osserva l'illuminazione per sé e la cessazione della sofferenza, no? E gli altri esseri qualificati dalla cessazione della sofferenza. Questi sono gli oggetti di osservazione. Quindi quando generate la mente di Bodhicitta dovete fare attento che ci siano bene questi due oggetti di osservazione. Ti vedo confuso. Illuminazione per sé e illuminazione per gli altri. Sì, io il nirvana per gli altri. Nirvana e liberazione. Sì, al minimo il nirvana sono vari tipi di nirvana. Abbiamo il nirvana con residui, senza residui e il nirvana senza dimora. Ma non è raggiungere l'illuminazione per il beneficio degli altri esseri. Sì. Ok. Quindi il maggior beneficio è che raggiungono l'illuminazione. No, allora, prima quello che è certo è che se stesso devi attualizzare l'illuminazione. Quindi questo è il primo oggetto di osservazione, l'illuminazione nel proprio continuum. Poi gli altri, rispetto agli altri, ultimamente, cioè a livello ultimo, è il nirvana senza dimora, cioè lo stato di Buddha che osservi. Però non tutti sono predisposti nello stato attuale a ottenere l'illuminazione, a volerla lo stato di Buddha. Quindi al minimo devi osservare il nirvana, senza qualificare, la cessazione della sofferenza, al minimo, sapendo che comunque è qualcosa di temporaneo. Comunque ci sono varie discussioni su qual è l'oggetto di osservazione rispetto agli altri Ma esseri. è Nell'Abhisamayalankara una cosa, ma in questo di dicono che è il nirvana nel continuum degli altri. Dimmi. se uno nasce in un campo di Buddha, tipo adesso siamo nel campo di Buddha di Shakyamuni, Come? siamo nel campo di Buddha di Shakyamuni. Io non so qual è la tua esperienza di tutti i giorni. Io so benissimo che non vivo nel campo, nella terra pura di Buddha Shakyamuni. È No, non parlo chiaro. della terra pura. Di che cos'è? Parlo Un nel campo campo di di Buddha Buddha è una terra Shakyamuni. pura. Allora, Siamo qui siamo nell'era dove Buddha Shakyamuni si è manifestato, quindi siamo i suoi discepoli, lui è il maestro. Quando tu parli del maestro è Buddha Shakyamuni, ok? Allora, il Buddha Shakyamuni lui è stato volontario per manifestarsi in questo periodo dove ci sono molte degenerazioni nell'intelligenza degli esseri, nell'amplitudine delle perfezioni, dell'amplitudine delle afflizioni mentali, nella durata di vita che è breve. Lui volontariamente si è deciso, è volontario perché gli esseri sono molto difficili da soggiogare in tale C'è periodo. stato un momento in cui. Aspetta, fammi finire. E in più si è preso cura di questa porzione dell'universo che si chiama Endurance. So. Endurance, non so come si dice in italiano. Endurance. Sì, è È uno sforzo anche, no? sì, come lo posso tradurre? Impegno, no? No, no, Com'è la frase? comunque, non mi viene l'italiano stasera non mi viene. Forbearance. Forbearance in inglese, non so se non è che mi aiuta molto. Comunque si chiama endurance perché è la nozione di situazione difficile, è duro, vivere Durezza. dura, cioè, è duro ma anche nel tempo, è fatica, cioè, ha l'idea di fatica, no? E quindi perché in questa porzione dell'universo c'è molta sofferenza, in questi tempi, in questa porzione dell'universo c'è molta sofferenza. Quindi il Buddha si è deciso, ha assunto questa responsabilità. Ma questo l'ha fatto prima di Sì, diventare quando era Shakyamuni. Bodhisattva ha fatto queste preghiere. Ok, ma ha preso un impegno ben preciso. Beh, ha fatto delle preghiere per manifestarsi in un periodo dove gli esseri sono difficili da soggiogare, che sono cinque degenerazioni nella porzione dell'universo che questa ben precisa che si chiama Endurance, che non riesco a tradurre stasera. Perché la domanda è specifica, perché l'altro giorno rileggevo il Sangata Sutra, ora dipende un po' dalle versioni che ci sono, e raccontava, non mi ricordo se era Shakyamuni o un altro essere, che ai tempi in cui era Brahmino aveva generato un impegno davanti Sì, a degli sì, sì. esseri che erano in quel momento degli animali selvaggi, e ha detto tipo rinascerete nel mio campo di Buddha, e vabbè loro hanno risposto sì, ok, e poi quando ha raggiunto era come spiegazione a un sorriso che aveva mostrato, un bodhisattva gli aveva chiesto perché il sorriso, lui già sapeva che quegli esseri che erano arrivati lì avrebbero raggiunto quel giorno la perfetta e completa illuminazione per quell'impegno che aveva fatto. E quindi? Quindi dico gli esseri che, e lui usava la parola nascere nel mio campo. Ma Poi si traduce. rinascere in un campo di Buddha, non ha, non, ci sono delle terre pure dove anche gli esseri ordinari vanno a rinascere. E poi i campi di Buddha, chi è che va a rinascere nei campi di Buddha? Anche gli Arya Bodhisattva vanno a rinascere nei campi di Buddha. Però campo di Buddha significa terra pura del Buddha. Ok? E come si può tradurre quando aveva fatto questo impegno a quegli animali? Mi prenderò io carico di voi e vi Un porterò. impegno, No, una promessa, un impegno, una per preghiera. capire se tutti noi che siamo venuti a contatto con gli insegnamenti di Shakyamuni, in qualche modo raggiungeremo la completa illuminazione per una qualche promessa che ha fatto. Beh, la qualche promessa che ha fatto è che lui ti insegna, ma non ti fa ottenere l'illuminazione perché l'ha promesso lui, capito? Cioè, nel senso che tu non ottieni l'illuminazione perché l'ha promesso lui. C'è un No. sorgere dipendente, nel senso lui fa la promessa di portarti all'illuminazione, ma l'impegno è tuo. Sì, non sto mettendo in dubbio che non c'è una forma di impegno. Dico che comunque dietro come una scia. Ma dipende, basta che crei una connessione, anche se tu rubi il Buddha, anche se tu lo rubi dei suoi vestiti, questo diventa una casa per la liberazione, perché crei una connessione. E il Buddha o i Bodhisattva sono vincolati dalla grande compassione, quindi semplicemente il stabilire su una connessione diventerà un modo in un altro una causa per portarti allo stato al di là della sofferenza, capito? Quindi comunque nel karma che stiamo creando, stiamo seminando per raggiungere Allora, è chiaro che noi il Buddha non l'abbiamo mai visto, altrimenti non saremmo qui. Cioè il Buddha, Buddha Shakyamuni, cioè, che si è manifestato 3.000 anni fa, noi non l'abbiamo visto. A quel momento eravamo chissà dove, che nei rami inferiori sicuramente. Sì, avevamo visto il Buddha, a quel momento non saremmo qui oggi. Quindi il Buddha che promessa ha fatto? Il Buddha ha fatto una promessa di occuparsi degli esseri in questa porzione dell'universo nei tempi degenerati. Noi siamo gli esseri di questa porzione dell'universo nei tempi degenerati. Ecco in che modo abbiamo sviluppato una connessione con l'insegnamento di Buddha Shakyamuni. E poi può darsi che cioè, comunque Buddha Shakyamuni è stato anche la nostra madre quando era un essere ordinario, capito? Ok, comunque, al di là di questo penso che possiamo chiuderla per stasera. Okay. Quindi cercate di riflettere su questi argomenti, cercate di metterle in pratica, okay? Di riflettere almeno 10 minuti la mattina, no? L'equanimità, le cose. Quindi facciamo una dedica per fare in modo che molto velocemente possiamo generare la mente di Bodhicitta. Che otteniamo velocemente l'illuminazione per il beneficio degli esseri senzienti, andiamo a dedicare anche per la lunga vita dei maestri autentici che insegnano il vero sentiero verso la vera cessazione finché i loro desideri si esauriscono, okay? E anche andiamo a dedicare per fare in modo che l'insegnamento di Buddha, in particolare quello di Lamassum Kappa, cioè a dimora a lungo in questa vita, in questa terra, perché senza degenerare, perché è la fonte di beneficio e felicità. Grazie.